È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Basso e non lo sai, e ti viene a pizzicare, crude tanto e già lo sai, e se poi ti senti male, all'ospedale devi andare, con la brutta influenza ti dovrai anche curare. Eccoci qui, la Zanzara, 18:36. Parenzo, dove sei? Eccomi, sto abbandonando la 7 per andare a via Settembrini, dove ho un appuntamento. Via Settembrini a Roma, vicino a Piazza Mazzini, vicino a Piazza Mazzini. Sì, esatto, dove c'è questo ottimo, no? Questo posto molto. Non facciamo molto pubblicità. È comunque un ristorante. No, un ristorante. No, un posto dove fare un aperitivo con un po' di gente del magico mondo della televisione e dell'informazione. E della disinformazione. E la canzone che stai ascoltando in sottofondo è un altro regalo dei nostri ascoltatori. Mi è arrivato un pacco oggi, addirittura dall'azienda Unità Sanitaria Locale dell'Umbria, di Perugia. Oi oi. Eh sì, perché è una musica che accompagnava una campagna della ASL di Perugia sulla, naturalmente, sulla disinfestazione, per ucciderci, insomma, per sopprimerci. Una canzone. E chi è l'autore? Chi è l'autore? Una canzone contro la tigre. L'autore non lo so perché era legato là, ma non è importante. Simpatica musica da balera, è divertente. Simpatica musica da balera che ci hanno regalato, perché insomma, trasmissione alla Zanzara non è molto, non è di grande auspicio per noi, però non siamo tigre ancora, non siamo Zanzara tigre, eh. No, no. Allora, anche però, se ho un morso di Zanzara tigre al senatore Ciarrapico, l'editore di Ciociaria Oggi, non mi dispiacerebbe un piccolo morso di Zanzara tigre, ma non che gli faccia male, un morsino. Un piccolo morso, dici tu? Beh, le tue. Morso giudaico, te lo dico io. Morso tue, mio giudaico. È il tuo morso giudaico, perché sei direttamente, indirettamente, diciamo, coinvolto in questa vicenda che è un po'. Una delle frasi, delle notizie del giorno, del la giorno. Introduciamo in questo modo. Eccolo dunque, Ciarrapico oggi al Senato. Quando ho sentito parlare Bocchino, ho pensato che nella tomba si sarebbe rivoltato il mio amico Pinuccio Tatarella. E non poteva essere altrimenti. Ella, signor Presidente, pensava che fosse casuale quel rinnegamento, no, era necessario, che avevano impartito un ordine, non farci raggiungere i 306 voti fatidici. Quindi non era rinnegati casuali, erano rinnegati mandati, erano rinnegati che avevano un compito da svolgere. Signor Presidente, 35 parlamentari che non sarebbero mai stati eletti se non avesse fatto eleggere lei. Torneranno nell'ombra, come nell'ombra tornerà quella terza carica dello Stato che lei molto generosamente gli aveva affidato. E questa è la prima parte in cui c'è questo ella rivolto a Berlusconi, poi torneranno nell'ombra i 35 rinnegati, anche l'uso del termine rinnegati, insomma, certo, ricorda tempi andati. Ma questo è un modo classico di parlare di Ciarrapico, che tante volte è stato ospite qui alla Zanzara per parlare male di Fini, e adesso da qualche mese invece dice di non rilasciare più interviste. Comunque la parte, diciamo, principale, quella su cui c'è una polemica, che invece è una polemica seria, non è una polemica su cui scherzare, anche se noi scherziamo sempre, sì, è questa. Fonderà un partito, speriamo che abbia già ordinato l'equipa con le quali si presenteranno, perché di questo si tratta. Chi ha tradito una volta tradisce sempre. L'onorevole Fini può darsi pure che svolga una missione, è una missione tutta sua personale, se la tenga. Quando andremo a votare, perché andremo a votare, vedremo quanti voti prenderà il trasfuga Fini. Grazie. E questo E questo è Ciarrapico, il senatore Ciarrapico, 800240024. La frase incriminata, come avete sentito, è quella iniziale, no? Com'è esattamente? Non, io me la scordo perché sono talmente assurdo. Quella della kippah, già la kippah. Hanno ordinato le kippah. Hanno ordinato le kippah. Tutto, c'è l'elemento del tradimento, no? Quindi sì. c'è un concentrato di stupidaggini clamorose. Bisogna ricordare che però Ciarrapico era molto amico del principe Caracciolo, eh? Sì, sì. Quindi c'era anche questo legame con questa borghesia, no, anzi questa nobiltà, perdon, sì. questa nobiltà di sinistra. In Senato c'era anche Achille Serra oggi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno senatore buonasera. Serra, come sta? Buonasera. Sì, tutto bene, tutto bene. Senta, ma lei, che è da poco passata all'UDC, è stato nel partito, magari al di là di questo adesso ne parleremo. Questo Ciarrapico che spesso ha fatto la rivendicazione del fascismo eccetera. Ma guardi, le riassumo in due parole, perché il capogruppo D'Alia ha chiesto al presidente del gruppo di espellerlo. Credo che un gruppo che espelle Fini senza alcuna ragione, a mio avviso, a maggior ragione dovrebbe espellere chi parla come ha parlato Ciarrapico in un'aula parlamentare, ecco. Lei lo sa che Ciarrapico non ha una residenza? Parenzo, lo sai anche tu che non ha una residenza Ciarrapico? Quando alcune persone che vogliono ottenere da Ciarrapico dei soldi dopo le sentenze, alcune non sanno dove mandargli le raccomandate, no? Nel senso che si presenta all'ufficiale giudiziario in un portone, in una sorta di stamperia dei suoi giornali o non so dove, in provincia di Frosinone, bussa ma non c'è mai nessuno, c'è la residenza ufficiale di Ciarrapico, è una sorta di capannone dove non c'è nessuno, eccetera. E vabbè. Ah, quindi questo è interessante, cioè per non farsi recapitare multe, avvisi di garanzia eccetera, basta non andare dare un indirizzo quasi fasullo. Beh, dove io, le ultime notizie di stampa, tempo fa, il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo ricostruendo tutta la vicenda. Alcuni creditori, dopo alcune sentenze, si sono rivolti naturalmente all'ufficiale giudiziario, cioè l'ufficiale giudiziario ha la residenza di Ciarrapico, si presenta lì, ma in realtà non c'è una casa, un'abitazione, come tutte le persone normali, insomma un senatore della Repubblica, bensì è una sorta di capannone. Ha parlato di 306 voti, bisognerebbe spiegargli che esclusi i Fini e la gente della Sicilia ce ne vogliono 316, ma io non lo so, mi è sembrato proprio un discorso fatto fuori da ogni logica e quindi come tale va trattato, a mio avviso. Berlusconi ha replicato in questo modo, secondo alcuni in maniera piuttosto soft, ha ribadito l'amicizia per Israele, perché certamente, diciamo la verità, Ciarrapico non è che mette in causa la politica italiana nei confronti di Israele, che come sappiamo è stata assolutamente vicina alle ragioni dello Stato di Israele negli ultimi anni, soprattutto... Credo che il presidente Berlusconi abbia risposto bene a questa cosa. Beh, ha detto che è una parola non è proprio una parola sfuggita. Risentiamo un attimo, senatore Serra, un secondo. Sì. Risentiamo Berlusconi. È sfuggita una parola al nostro senatore. Insomma, non è proprio sfuggita una parola. Sentiamo. Vorrei poi evitare che una parola di troppo, sfuggita a un nostro senatore nella foga di un intervento polemico possa ingenerare degli equivoci. In tutta la mia vita. E poi Berlusconi qui riafferma la sua vicinanza ad Israele. Non è proprio una parola sfuggita, senatore Serra. Sì, sì, è chiaro, certo. Secondo me doveva essere nei confronti di Ciarrapico, doveva essere un po' più duro, magari in privato l'avrà fatto. Insomma, doveva rivolgersi a Ciarrapico. Guardi, le dico che Ciarrapico non era presente oggi in aula. Quindi come non era presente? Dopo, quando c'era Berlusconi, dice oggi pomeriggio. Alla replica di Berlusconi, sì, alla replica. Perché mi fa pensare che altro che durezza ci sarà stata dopo. Certo. Senta, ma sul momento là, quando Ciarrapico ha detto queste cose, non ci sono state voci, perché forse le persone non hanno... No, non ci sono state, perché le persone non hanno... Prima di tutto c'era poca gente in aula, e poi io c'ero, e poi non ha preso un po' tutti alla sprovvista, l'ha presi tutti di improvviso, così, nessuno si aspettava... Una cosa così squallida e così bassa. Allora Parenzo, voglio chiederti una cosa. Qualcuno dice, anche degli ascoltatori che ci hanno scritto, certamente le parole di Ciarrapico sono gravi, perché hanno a che fare con la storia, la kippah, trattare in maniera dispregiativa alcune cose, tutto un popolo. Però anche le parole di Di Pietro ieri non sono state da meno. Si possono paragonare le due cose, Parenzo? No, ma adesso non lo dico per ragioni di laica appartenenza al popolo ebraico. Guarda che sono due cose completamente, come dire, incommensurabili, no? Non misurabili, non paragonabili insieme. Cioè, lo stupratore, lo stupratore di Democrazia Berlusconi non è può grave non qua? Può non piacere, ma no, può non piacere nella dialettica democratica che uno usi un termine così duro, ma l'errore Ciarrapico ha fatto di più, cioè ha usato uno stereotipo che nel corso dei secoli è sempre stato, come dire, all'ordine del giorno, cioè associare alla parola tradimento, sì, Giuda, l'ebreo dei 30 denari, e a questo ha aggiunto l'altro stereotipo della kippa, cioè del Fini venduto alla lobby ebraica, sì, quindi non sì, ha nulla di critica politica, per quanto magari non ci possa piacere la iperbole, la forza con cui Di Pietro ha detto stupratore della democrazia, e qua ne abbiamo discusso anche ieri, ma qui c'è un odioso stereotipo, no? Perché voglio dire, poi la critica israeliana, sì, si possono paragonare le due cose? No, io sono assolutamente d'accordo, perché certamente condanno il modo di parlare di Di Pietro, anche perché in un'aula parlamentare nei confronti del Presidente del Consiglio è doveroso attaccare l'opposizione su piano politico. L'insulto, a mio avviso, da uno spettacolo brutto. Però lei dice sono due piani però diversi. Sono due cose diverse. Allora abbiamo il traffico, poi torniamo, perché il senatore Serra, adesso glielo dico perché qui alla Zanzara siamo anche abbastanza cinici e brutali in alcuni momenti. Ha avuto una storia politica piuttosto travagliata, perché è stato parlamentare per 2 anni di Forza Italia, poi è tornato a fare il suo mestiere, cioè il poliziotto, poi per amicizia e conoscenza con Beltrone è stato candidato nel Partito Democratico e adesso passa all'UDC. Ne parliamo tra poco dopo il traffico. Eccoci, 18:48, 800 24 00 24. Sera, lei oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice: io non mi vendo per 3 mozzarella. A cosa si riferiva? No, guardi, intanto vorrei precisare un suo iniziale intervento, mi è sembrato, lo dico senza polemica, un po' superficiale, cioè? E che non solo lei ha fatto. Si è candidato con Forza Italia, sì, è vero. No, io mi sono candidato con Forza Italia nel 1996. Sì. E sono, voglio precisare, l'unico parlamentare nella storia del Parlamento italiano che si è dimesso dopo poco tempo a legislatura aperta. Infatti ho detto, lei è tornato a fare tutto il suo mestiere dopo. Sì, rinunciando a tutti e correndo il rischio che, tornando a fare il mio mestiere, potevo essere ampiamente penalizzato. E invece, ma perché lei dice che è stato un errore? Com'è che definisce questa cosa di Forza Italia? Una cavolata, perché? Quella di entrare, perché non era, io ero prefetto di Palermo, capivo molto poco di politica. E perché si candidò? E mi candidai perché mi chiamò Berlusconi, mi disse si scelga il collegio, io andai a casa, dissi vorrei scendere in politica, mia moglie un altro po' mi caccia di casa. Ma dunque lei si candidò per ambizione, dunque per vanità, cosa? Perché avevo raggiunto dei bei livelli sotto il profilo professionale e pensavo di poter essere utile in un altro settore, però poi fu una riflessione, credo che nella vita non ci sia uomo che non abbia fatto degli errori. No, certo, e io ho fatto l'errore, non sono uscito da Forza Italia sbattendo la porta, come adesso dicendo ho avuto tanta vicinanza, ho imparato tante cose, ma non è il mio mestiere. Lei dirà perché dopo è diventato il suo mestiere? No, perché io ho lavorato per 5 anni fianco a fianco con Veltroni, io prefetto e lui sindaco, abbiamo lavorato, i problemi suoi erano i miei e viceversa, e quando poi è arrivato l'età del pensionamento coincideva con l'ascesa in campo, e quindi ho detto sì a Veltroni perché l'uomo per me è straordinario. Tra l'altro ricordi, Parenzo, l'ex prefetto Serra fu protagonista di una polemica anche con lo stesso Veltroni sulla vicenda dei quartieri a luci rosse. Sì, esatto, quartieri a luci rosse. Noi facemmo una battaglia a favore di Serra, poi Veltroni su quella cosa tentennò un po', disse beh, forse non è il caso, il batic americano. Noi qui alla Zanzara siamo favorevolissimi a queste cose. Sera, lei porti avanti queste battaglie serie. Sì, sì, voglio portare una domanda alla sua eccellenza, perché io i prefetti li chiamo ancora, cioè, senatore, ma sua eccellenza. Vabbè, adesso non esagerare. Però se mi chiama prefetto, per me è, continua a essere un onore, ecco. Allora, no, infatti lo so, che dicevi, Parenzo? Un nonno che è stato questore, quindi so che loro ci tengono molto ed è una questione di rispetto anche rispetto a un uomo delle istituzioni. Perché invece è una cosa molto italiana, però questo, come dire, non voglio chiamarlo pendolarismo delle idee, però voglio dire, l'analisi che mi interessa fare con Serra è la capacità di Veltroni di catalizzare intorno a sé uomini i più diversi, appunto, abbiamo sentito ieri Calearo, sua eccellenza il prefetto Serra, eccetera. A un certo punto, venuto meno Veltroni, tutte queste persone qui hanno detto no, ce ne andiamo perché il PD non è più quello. Ecco, anche lei pensa che tornano i comunisti nel PD? Io penso che si stia pensando a un Ulivo 2, non credo di inventare niente. Cioè lei dice sono rabbrividito, è vero? Lui è andato lì per Veltroni, non per il partito, questo è il tema oggi, mi pare. Esattamente. Perché rabbrividisce lei all'ipotesi che ci sia un Ulivo, un nuovo Ulivo? Io lo dico subito, perché l'Ulivo e quindi il governo Prodi è caduto non perché per colpa di Prodi. Una cosa è la compagine per vincere le elezioni, una cosa è la compagine per governare. Ma lei pensa che ormai Di Liberto, questi qua, sono ormai prossimi all'accordo con Bersani? Lei dice questo non mi sentirei di dirlo. Ma non è per questo che io sono uscito perché ritengo che nel Popolo delle Libertà ci sia stata una implosione fortissima, nel senso che pronto? Serra, non la sentiamo, aspetti. Serra? Prefetto? Prefetto? No, non la sentiamo. Anche i telefoni degli ex prefetti o dei prefetti dell'eccellenza ogni tanto. Questo è un problema. Questo è un problema. Prefetto? Pronto? È sparito. Vabbè, Parenzo, siamo qui. No, c'è. Eccoci, anche i telefoni dei prefetti ogni tanto fanno delle... No, dicevo, il partito, il Popolo delle Libertà è imploso e questo sta sotto gli occhi di tutti. Il Partito Democratico... Ma con Veltroni, lei ci ha parlato di questa cosa che lascia? Sì, naturalmente, gliel'ha detto prima. Veltroni che le ha detto? No, Veltroni ha cercato, io ho parlato un mese e mezzo fa con lui, e lui mi disse ma resta, eccetera. Io credo che sentire un giovane sindaco che dice delle cose interessantissime, io non parlo mai male di nessuno, Renzi dice buttare a mare tutti quanti quelli che ci sono, non mi piace. Dall'altra parte c'è Chiamparino e Vendola, dall'altra parte c'è Bersani e D'Alema, dall'altra parte c'è Veltroni. Vabbè, lei lo sapeva però che era questa la storia del Partito Democratico, insomma, non credo che quando sono sceso in campo pensavo a una situazione. E che pensava? Che Veltroni cambiasse tutto, che fosse il padrone di tutto il partito, eccetera, eccetera. Sì, ma lei sa che dal primo giorno si è cominciato a minare. Chi è che ha fatto la guerra a Veltroni, soprattutto dal suo punto di vista? Chi è l'uomo che ha fatto soprattutto la guerra al suo punto di riferimento nel Partito Democratico, cioè Veltroni? Chi l'ha fatto? Io credo di non scoprire l'acqua calda se dico che c'è una polemica che dura ormai da anni tra Veltroni e la parte italiana, ma no. Da lei, ma insomma, ha fatto la guerra a Beltroni e tutto è andato come è andato. Vabbè, senta, un'altra cosa, lei entra nell'UDC per fare cosa? Io entro nell'UDC perché penso che il bipolarismo non abbia volato. Però Beltroni voleva il bipolarismo. Veltroni voleva il bipolarismo. Dunque lei ha cambiato idea? Lei ha cambiato idea? No, attenzione, e quindi ci abbiamo provato. Ora... dicevo in un suo collega, solo gli stupidi cambiano idea ogni momento o non la cambiano mai. Ho capito. Dobbiamo prendere atto che ho capito. Un'ultimissima domanda perché si sente male, Serra. Ieri qui Calearo, che come lei è uscito dal Partito Democratico, ha detto di essere stato prima dal Partito Democratico, poi all'API, adesso non si sa dove vuole andare. Ha detto di essere stato minacciato e ha ricevuto la scorta. Sì, senta, io una sola cortesia le chiedo, sì. Non mi paragoni a Calearo. No, ma non faccio nessun paragone, non è che sia un bandito Calearo. Assolutamente, però ha fatto delle scelte, cioè io le faccio notare che sono entrato in un partito che è all'opposizione. Sì, sì, no, per carità, ma pure Calearo fino adesso non ha votato la fiducia, ha detto che si è astenuto. Senta, però le voglio chiedere, secondo lei è credibile questa cosa delle minacce, eccetera? Sì, perché è stata data la scorta. Non ci credo minimamente. Cioè lei non ci crede? No, assolutamente. Cioè, non lei credo pensa minimamente che... a questa cosa. Lei pensa che dare la scorta a Calearo sia stato sbagliato? Credo che sia stato sbagliato. Credo che sia. Ma sulla base di cosa? Mi scusi, Serra, sulla base di cosa lo dice? Perché dovrebbe essere stato minacciato? Perché dovrebbe essere stato ma minacciato? La scorta la decidono le autorità, dunque ci sarà. Assolutamente sì, ma lei è sicuro che gli è stata data la scorta? Eh sì, come no? Lui l'ha detto lui, non ci sono smentite, eccetera. Bene, per me è stato un errore. È stato un errore. Poi sarà. No, certo, vabbè, perché conoscere fino in fondo i fatti. Certo, la ringrazio, devo... Ecco. C'è il giornale radio, grazie. 800 24 00 24, ci sentiamo dopo. Siamo qui alle 19:20, 800 24 00 24 e ritroviamo dopo un lunghissimo giorno di assenza Luca Telese. Ma come faccio senza di voi? Come faccio? Dove sei? Ti sento anche oggi lontano, in un luogo dove ci sono rumori. No, sono in redazione, però insomma sto astenendomi un po' da frequentare la zanzara perché è diventato un po' troppo poco serio. Come è diventato poco serio? Sono troppo battuto, poi Cruciano, Maragona, Telese, non mi piace. Parenzo. Parenzo. Straordinario imitatore, le sue imitazioni di Grillo stanno diventando ormai un must, tormentone. Un tormentone assoluto. Sentiamo i titoli del TG3, se sei curioso anche tu, sentiamo. Berlusconi al Senato, per noi fiducia con numeri senza precedenti, Finiani saranno leali, ho salvato io le banche americane. Bossi, un errore, andiamo a casa, poi si scusa con i romani, l'opposizione è una nostra vittoria, D'Alema ospite al TG3. Ciarrapico contro Fini, è un traditore, a fronte l'equipa, coro di critiche, parole intollerabili, il premier, io sempre amico di Israele. Unicredit sceglie Ghizzoni per il dopo Profumo, Tremonti a Bruxelles, il rigore europeo sui conti pubblici non ci preoccupa. Assessore leghista di un comune del nord-est viene arrestato mentre in tasca una tangente di 15.000 euro, il sindaco del paese si dimette. San Suu Kyi, dissidente e leader dell'opposizione birmana, sarà liberata a novembre dopo le prime elezioni degli ultimi 20 anni. Si è spento a 85 anni Tony Curtis, uno dei grandi seduttori di Hollywood, eroe della commedia americana, ironica e brillante. Dunque può iniziare lo Zanzara Party di questa sera. Abbiamo avuto ospite, caro Luca, prima il senatore Serra, che è passato all'UDC, prima Forza Italia, poi dice è stato un errore, una cavolata, è tornato a fare il suo mestiere, cioè il poliziotto, innamoramento con Beltroni, poi candidatura nel Partito Democratico, adesso UDC perché dice che stanno tornando i comunisti insieme al Partito Democratico. Naturalmente non solo per questo, per vari altri motivi passa all'UDC. C'è grande movimento in Parlamento, ricomposizione, cioè che dico, ce ne fosse uno di questi beltroniani, parlamentari scelti a Beltroni che è rimasto nel PD. A Rosanna Madia, che fine, Marianna Madia, che fine ha fatto? Una grande stima per il questore Serra, ho letto la sua biografia, però non mi immaginavo che fosse uno di quelli che dice oddio, sono arrivati i cosacchi di Bersani e se ne va. Non me l'aspettavo, devo dire la verità. Beh, non ci saranno stati solo i cosacchi di Bersani, lo spauracchio dell'Unione. È troppo grosso a Bersani dirgli che si è comunistizzato, magari. Allora, è solo Pop Bresneviano. Pop Bresneviano, questa è una definizione che tempo fa Telesi ha dato di Bersani, io non ho capito, poi magari dopo ci spiegherai. Berlusconi sui giornali, oggi al Senato, dove è stato, me lo confermi Luca, un po' più aggressivo, tra virgolette, un po' più Berlusconi rispetto al discorso di ieri alla Camera. Berlusconi, ti credo, i giornali. Perché? ieri certo, è riuscito a deludere tutti, cioè sia i detrattori che gli ammiratori, cioè era un Berlusconi. Anzi, a un certo punto ha detto, me l'avete tagliato quando dice ci stiamo addormentando tutti, no. Vabbè, ma non fa niente, insomma lo spirito era questo. A un certo punto dice, beh, qui ci siamo tutti addormentando, adesso andiamo all'attacco. I giornali di sinistra e i giornali di destra, sentite. È singolare che l'azione positiva del nostro governo sul terreno dell'economia, ma non solo su questo, sia presa a modello più all'estero che in Italia. Ma ormai non ci stupisce più di tanto, perché i media, che in gran parte sono vicini alla sinistra, sapete contare le copie? Allora, contate le copie dei giornali e vedrete che i giornali che appaiono vicini a noi e che forse ci fanno più male che bene, sono una frazione minore dell'intera tiratura dei giornali. So che la cosa ti riguarda da vicino, però la tiratura dei giornali, per esempio, tra quelli che lui classifica di sinistra, secondo te c'è il Corriere della Sera? Secondo me sì, lo mette tra quelli, o no? Certo, un giornale così bolscevico come il Corriere della Sera, vabbè, adesso quei, questa... con quel gruppo dirigente marxista-leninista tipo Stellino, il povero Biggi, chiamiamo Biggi, e come si sente? Vabbè, però non l'ha messo dentro formalmente il Corriere della Sera, però... Ma come si fa allora a diventare la maggioranza? Perché il giornale libero fanno 350... No, 300, no, nemmeno 300... 300.000 copie vendute, no? No. Il giornale, ne vogliamo dare 100.000 al nostro amico Maurizio Belpietro. Ma 100 tu, anche, no? Sì, 250. Diciamo 250. 350. Poi il Tempo. Vabbè, il Tempo saranno 50, per carità, con tutto il rispetto per il direttore Secchi. 40.000, insomma, quindi 400.000 copie. Già Repubblica siamo oltre le 400.000, per cui insomma. Se mettiamo allora, solo Repubblica. Poi c'è il Fatto, non lo so, magari l'ha messo dentro, secondo me era dentro. Diciamo che Repubblica, il Fatto, l'Unità, il Manifesto, il Riformista, tutti insieme. Beh, tutti insieme fanno un milione di copie. 500.000 copie. No. 120.000. Vabbè, comunque sono discorsi assurdi. Sono discorsi assurdi. Il discorso invece sui giornali di destra che ci fanno male, certo lo diceva ridendo, però può avere un suo vabbè, ma allora suo non è contento dei giornali destra, ma è contento del Secolo perché ha detto che non è più il giornale. È contento della televisione. È contento della televisione. Perché cedono, che cazzo? Della televisione, liberale. Forse della televisione è contento. È insoddisfatto proprio, è una sofferenza. Sentiamo la meravigliosa circolare male. No, ma non parliamo di queste cose, perché vuoi parlare di Masi? No. Alzo il sopracciglio. No, ma chi se ne devo dirti la verità, io me ne allora, devo dirti la verità, io me ne frego sia della vicenda di Schifani, sia della vicenda di Schifani. Me ne frego sia della vicenda di Schifani. Hanno ragione quelli che dicono, ma Cruciani un po'. Ma io non mi sono bolscevizzato, ancora non ci siete riusciti. Circolare Masi, ma chi se ne frega di la circolare Masi? No, chi se ne frega un trucco. Ma non è un problema del paese, la circolare Masi. Io ti devo redimere. Ma cosa? Quello sul contraddittorio? No, ma è ridicolo, io sono d'accordo con te che è ridicolo, ma chi se ne... sorridi, e cioè la zanzara con quella circolare finirebbe in un campo di... No, ma se poi andiamo nel dettaglio, io ti dico che è tutto ridicolo, che è tutto... Allora, noi siamo senza contraddittorio, no? Siamo tendenziosamente faziosi, anzi siamo anche accusatori, perché anche quello siamo... Vabbè, mica siamo il servizio pubblico, non siamo il servizio pubblico. Se c'era Masi e non gli illuminati della Confindustria che male fanno a criticare i nostri ascoltatori, e se non c'erano gli illuminati e c'era Masi, noi eravamo in un campo di concentramento. Ok, però non siamo il servizio pubblico, è diverso. Comunque sono d'accordo con te, qualsiasi circolare che riguarda qualsiasi circolare che riguarda il modo in cui devono essere fatti i programmi. Circolare Masi, dai. Ma non so, non lo so, non la conosco nemmeno nel dettaglio, perché me ne frego. Come lo direbbe vabbè, la circolare Masi, se prevede pesticida di Masi. No, quello no. La circolare Masi, se prevede come devono essere costruiti i programmi, il contraddittorio, non so che prevede, poi gli sguardi. La mimica del dito. Vabbè, la mimica della cosa è una stronzata. Se lo fanno è una stronzata. Dopodiché beh no, perché dopodiché ti aggiungo, me ne frego perché non è un problema del paese, vabbè. Questo aggiungo. Ma non è un po' troppo vittimista, per esempio la Dandini è troppo vittimista, dimmi la verità. Poverina, manco riesce ad andare in onda. Ma che non riesce ad andare in onda, su, smettiamola con queste cose. Borsa, poi lo sai chi ti presento dopo la Borsa? Alberto Fortis, mitico Alberto Fortis, se lo troviamo per telefono, il quale vuole specificare, vuole dire alcune cose sulla canzone, o forse dopo le 8, Fortis, forse dopo sulla le 8, canzone? No. Sulla canzone, quella su Roma, no? I leghisti, la Radio Padania impazza questa canzone, che è una vecchia canzone di Alberto Fortis, poi c'è anche Walter Lavitola, Walter Lavitola con noi. No, Lavitola, voglio esserci, ciao. Ciao. Eccoci qui con la Zanzara, 19.34, 800 24 00 24, la Zanzara su Radio 24. Un po' di spunti per oggi dalle voci più assurde che abbiamo raccolto intorno al Parlamento. La prima è naturalmente la frase della giornata, la frase incriminata: Ciarrapico e le kippah, che sono il copricapo ebraico, qualcuno ce l'ha chiesto, via. Fonderà un partito, speriamo che abbia già ordinato le kippah con le quali si presenteranno, perché di questo si tratta. Grandi accuse anche da parte di parlamentari del PDL nei confronti di Ciarrapico. Barbareschi, ancora dopo aver detto che la fotografia di questo paese, dello sprofondo morale di questo paese, è il fatto che da 10 anni c'è il Grande Fratello, una cosa secondo me allucinante, assurda, sempre ieri da qualche parte ha detto anche che la camorra paga i parlamentari. Quando si dicono certe cose, caro Barbareschi, per carità, succederà anche, bisogna pure tirare fuori le prove. Barbareschi, via. Certe battute, certe cose che ho visto in questi anni non le avremmo mai immaginate, cioè non potevamo immaginare di vedere fra i banchi dell'aula due dire: ma pure a te la camorra ti paga in ritardo? Ha sentito questo in Parlamento? Certo. Allora, ma pure a te la camorra ti paga in ritardo? Ma era una battuta, Barbareschi, no, o era una cosa seria? Non è una battuta. Cioè Barbareschi avrebbe sentito in Parlamento due che conversavano in questo modo. Bah. E poi c'è anche dello stesso Barbareschi la fiducia a malincuore. Ci sono tanti modi per dare la fiducia. Barbareschi dice a malincuore. Ho fatto una scelta veramente a malincuore, perché credo che il discorso oggi di Berlusconi sia stato molto deludente, sia stata una replica di quello che ha già detto nel 94, per cui era imbarazzante. E poi c'è Calearo, il quale ieri qui alla Zanzara ci ha confessato che da oggi è sotto scorta, anche se non lo augura a nessuno. Io da domani ho la scorta dei carabinieri. Sono senza scorta da giugno, e da giugno adesso stavo respirando dopo 6 anni di scorta, e credo che non sia un complimento dalla scorta uno, una grossa costrizione, non gliela auguro a nessuno, neanche al peggior nemico. Anche perché ha detto: comunisti duri e puri mi hanno scritto di tutto. Poi la frase di Di Pietro, incriminata di ieri, Di Pietro la spiega porta a porta: stuprare è nel vocabolario. Non era un po' sovraesposta quella foto, no? Eh? Non era un po' sovraesposto? Non era sovraesposto, no. Guardi, io mi sono andato a riprendere, visto che non capisco l'italiano, mi sono andato a riprendere il vocabolario Sansoni editore. Stuprare uguale violentare, forzare, costringere, sottoporre a violenza morale. La democrazia è la verità. E siamo qui, queste le voci della politica, 19.37, 800 24 0024, Mario da Verona, buonasera, poi abbiamo Massimo, provincia di Messina, Francesco, provincia di Modena, Vito, provincia di Milano. Via. Pronto? Mario, prego. Buonasera a tutti, saluto Telese e adesso Parento. Adesso lo richiamiamo tutti. Ascolti, un piccolo inciso, Berlusconi dimentica, volutamente, chiaramente, che i giornali li guardano il 20% della popolazione, sì o no, mentre la formazione politica avviene tramite i telegiornali, tramite la televisione. Mm. Ecco, primo. Secondo? Secondo, riguardo alla questione Ciarrapico, la coerenza, e la chiedo a lei, Cruciani, sulla cui imparzialità mi permetterà, ho qualche dubbio. Ah, beh, lei può avere tutti i dubbi che vuole. Sì, sì, no, lo so. Anche cosa, certezze potrebbe come avere. Come lei ha diritto, chiaramente, di pensarla come vuole. Meno male. Volevo chiederle, secondo lei, riguardo la coerenza di Berlusconi, è coerente Berlusconi quando risponde oggi come ha risposto a Ciarrapico, o è quando va da Storace a Taormina a fare i discorsi con i ragazzi, forza tedeschi, forni ebrei, eccetera? No, ma scusi un attimo, Mario, ma non mi pare che Berlusconi abbia mai detto frasi di questo tipo. Lei dice va da quelli di Storace che sono chiaro. Ma Storace non è mica filo nazista, No, Storace no, ma il gruppo che sta attorno a Storace cioè, anzi si augura che Forza Nuova entri nel suo gruppo, come se non è già entrato chiaramente, no? E sappiamo che no, diciamo che ci sono alcuni frammenti della fiamma tricolore, credo di Romagnoli, non mi ricordo, che poi adesso forse Luca ne sa di più, sono nella destra, che certamente hanno delle posizioni sulle vicende storiche su Mussolini un po' tradizionalista. La coerenza, ecco, di questo personaggio qua, che ma fa la coerenza di Berlusconi, presidente del Consiglio, cioè la coerenza di Berlusconi, dice, è come quando va a Onna con il fazzoletto del partigiano, o quando diventa. Però, io sono stradilavi convinto che lui sarebbe capacissimo di andare a Rifondazione Comunista col pugno alzato, perché lui è comunista, questa con i comunisti, questa non è male, fascisti. Questa non è male, però sulla vicinanza di Berlusconi alle ragioni dello Stato di Israele, su questo non si può discutere. Che oggi ci volesse una parola molto più dura anche da parte del Presidente del Consiglio, oltre che dei parlamentari di Forza Italia, ho letto Fiamma Nera e stane altri nei confronti di Ciarrapico, quello sì, magari gliel'ha detto in privato, non lo so. So solo che alla replica poi Berlusconi non si è presentato, Ciarrapico non si è presentato. Scusa Giuseppe, dimmi, ma Talese. Io non condivido nulla di quello che dice Ciarrapico, vabbè, questo è chiaro, penso su di lui, però vogliamo criminalizzare il fatto che abbia espresso un'opinione che ha un seguito in un pezzo di quell'elettorato? No, cioè, che vogliamo, che essere, ha, vogliamo cioè, essere ipocriti e dire che nessuno la pensa come Ciarrapico, dai, non c'è. No, in quale elettorato? Scusami, in quale elettorato? Scusa, quale elettorato? Un pezzo dell'elettorato del centrodestra, sicuramente c'è la convinzione. Ma nella maniera più assoluta, no, nella maniera da Israele. È che Fini sia manipolato da Israele? Sì, la cosa, la città è andato, si è inginocchiato. Ma io non credo che ci sia una parte di elettorato del centrodestra. Ma probabilmente c'è, ma insomma non è questo il punto, secondo me. Cioè, non è che Ciarrapico. Io non condivido, però non è che dobbiamo pensare che sono dei mostri o demonizzarli, no? Cioè, no, perché tu vuoi arrivare alla tesi che quello, una parte elettorato di centrodestra la pensa come Ciarrapico. Io invece penso che Ciarrapico rappresenti una estremissima minoranza dell'elettorato di centrodestra. Anzi, mi hanno molto sorpreso, devo dirti. Ma non voglio squalificare. Cioè, io voglio dire una cosa diversa. È un'opinione che mi ripugna, no? Cioè, che considero fantasiosa, folle, un po' paranoica. Però non è un'opinione che non si può... Cioè, non è come dire che le camere a gas non sono esistite, capisci? No, vabbè, certo, che c'è. Cioè, quelle sono due cose diverse. Pareresti anche tu. Però dire, guardate, che Fini, per farsi legittimare, sì, si è messo sì nelle mani della grande borghesia intellettuale cosmopolita israeliana, è una cosa, io considero una cazzata colossale, però molti lo pensano. Bah, io su questo, sul fatto, a parte che non sappiamo se Ciarrapico intendesse quello, in realtà, perché può darsi pure che Ciarrapico intendesse semplicemente dire Fini ha avuto un cambiamento troppo repentino ed è arrivato fino a mettersi la kippa. Io, anch'io, dice Ciarrapico, sono adesso vicino alle posizioni di Israele, perché pubblico domani anche delle cose sui miei giornali, eccetera eccetera. Ciarrapico è un poveretto. Sì, ma questo è in che senso è un poveretto? No, Ciarrapico è un poveretto, un vecchio arnese del fascismo, e c'è una componente della non maggioritaria assolutamente, ma c'è una piccola componente della destra italiana che la pensa come Ciarrapico, questo odioso piccola componente. Allora, che sia un poveretto non c'è dubbio, dopodiché no, poi non noi intervistiamo l'editore di Ciociaria oggi, cioè stiamo parlando di un editore di Ciociaria oggi. Beh, ma anche la fisionomica diventa una scienza Telese, esatta. Tu sai, no, adesso non mi fare il razzista, sì, sulla fisionomica, no, dai. Che razzista, dico, nel caso di Ciarrapico la fisionomica va rivalutata come strumento di Però scusa, queste sono battute. Una cittadinanza è una corrente di pensiero internazionale che, ripeto, io combatto, ma esiste in America. Ho capito, però tu lo attribuisci ad una parte dell'elettorato di centrodestra. Cosa io penso non sia così, ma non so quantificarla, quanti sono, ma molti, ma non ci crede nessuno alla lobby ebraica oggi nell'elettorato, non ci crede nessuno al fatto che alla lobby ebraica che guidi. Non c'è nessuno che pensa, no, in Italia nell'elettorato di centrodestra a cui tu ti riferisci non c'è nessuno che pensa che ci sia la lobby di Israele che controlla una parte della politica estera italiana, no? Io invece sono convinto che molti pensano che ci sia una a sinistra, nell'estrema sinistra lo pensano, nell'estrema destra, cioè comunque minoranza. Ma anche, no, ma non sto dicendo dentro Forza Nuova, dentro un pezzo del PDL, dentro un pezzo dell'ex AN. Comunque tu lo sapevi questa cosa? Si è separata gioiosamente da Fini dicendo, eccolo lì, quello è diventato schiavo delle lobby. Parenzo, dove ti trovi? A quale aperitivo ti trovi? No, adesso sono a via Settembrini, ma direttore. Cioè, ma non lavori mai, non lavori mai. E sto andando a casa di Valdo Gamberutti a vedermi Anno Zero. Ma sempre a casa di Gamberutti, sempre a vedere Anno Zero. Ma non c'è qualcosa di meglio da fare che andarti a vedere Anno Zero giovedì sera? Non vai a cinema. È come andare allo stadio. Ma dai, che stadio, è noioso, sempre. Senti, le solite Giuseppe, cose. Giuseppe, volevo dire una cosa prima che... Un attimo, c'è Walter Lavitola, fermi tutti, fermi. Lavitola, buonasera. Pronto? Pronto? Sì. Signor Lavitola, buonasera. Buonasera. Buonasera, le presento i miei compagni di avventura di questa sera. Il signor Telese lo conosce, Luca Telese, sì, penso. Sì. Parenzo, prima di bere l'aperitivo, un attimo, le noccioline, un attimo che c'è il signor Lavitola in collegamento. Ci sei? Sei pronto? Sì, ci sono. Sono prontissimo. No, mi rivolgevo a Parento. Che sta facendo il signor Lavitola? È tornato quando dal Sud America? Cioè dal Sud America, dal Centro America? Ieri. È tornato ieri. Senta. Scusa, ma tra colleghi o ci si dà del tu oppure si chiama dottore? Che facciamo? Ditemi io voi. Preferirei del tu. Diamoli perché è possibile. Del tu. Diamoci tutti del tu. Io del lei mantengo le distanze dalla vita. Tu perché sei che mantieni le distanze? Signor Parenzo, David Parenzo, lo conosci? David Parenzo. David no, non Parenzo. Lo conosco, mi dispiace. Vabbè, vuole dare del lei. Io invece sì, accolgo il suggerimento. Ma sei un giornalista, sei un collega? Io no. Sono un no, tu Parenzo, dico. Parenzo è un collega. Parenzo anche. sì, Parenzo è un collega. Cavolo, certo. Non sei così ideologizzato che pure tra colleghi ci sta del lei. E perché devi subito ideologizzato gli ha dato? Che è successo? Mantengo il lei anche per rispetto dei telespettatori, per mantenere un registro distaccato per l'intervista che le faremo. E vabbè, facciamo così, la vita, ognuno sceglie la sua... Oh, ma che scherzi, per l'amor di Dio. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Telesia, dove vuoi iniziare? Inizia tu, inizia tu. Allora, io volevo chiedere intanto alla vita proprio una curiosità, cioè se l'Avanti ha aumentato la vendita delle copie perché ha avuto un'esposizione mediatica che neanche un Pulitzer, no? No. Sì, assolutamente sì, solo che sai, a distanza di una settimana noi non riusciamo ad avere i dati precisi. Mi dicono cioè, da quanto vende a quanto... No, ma mi dicono un incremento intorno alle 3.000 copie, che per noi è un boom. Dunque quanto? 30% in più? 30-40% in più? Sì, un 20% in più. Io però io partirei subito. Telesi, tu l'hai presa subito alla larga, l'Avanti, che ci frega di quanto vende l'Avanti? Ma che me ne frega a me l'Avanti, per carità, con tutto il rispetto. No, e poi che te ne frega a te dell'Avanti? A me no, me ne frega. Se fai così, allora guarda, faccio sciopero. No, Walter, no, scusami. Adesso diciamo, no, non volevo dire l'Avanti. Ma sto scherzando, vai. No, voglio mia, dire. Che palle, voglio... siete permalosi. Noi permalosi, che permalosi? Dai, tutto, tranne che permalosi. L'Avanti è un simpatico giornale di testimonianza. Figuriamoci. E poi. Anzitutto è Avanti o l'Avanti? Avanti. Infatti. Avanti. È perso l'apostrofo avanti in qualche causa legale. In qualche causa legale ha perso l'apostrofo. Sì, ma era vero, eh. È vero. Cioè, è vero. A un certo è vero, punto si ragione, noi abbiamo testate. Fatto talmente tante di quelle cause all'epoca che manco di dire. Allora, l'Avanti, vabbè. L'Avanti della domenica. La Vitola, però, avanti con la andiamo avanti appunto. Per tutte le persone, che di quello che è successo in queste settimane non sanno niente, i viaggi, le cose, le accuse, Santa Lucia, eccetera, eccetera. La Vitola, due punti. La casa è di Giancarlo Tulliani oppure no, secondo la Vitola? Ma proprio la casa di Montecarlo, proprio una sintesi. È la Vitola, noi questo dobbiamo dire. Io credo di sì. E sulla base di cosa? Perché base, credo? Non ci sono certezze. Ma no, guarda, ti ribadisco, qui ci sta un modo di fare il giornalismo che purtroppo o per fortuna non mi appartiene. E quale sarebbe? E ti ribadisco, io non riesco a dire che una cosa è sicuramente così finché non ci sono le prove incontestabili. Io ritengo che le prove incontestabili si possono avere se e quando l'indagine di questi qui è chiusa oppure se e quando c'è una prova incontestabile. Io ritengo che una prova incontestabile ci sia, ritengo che se questa prova incontestabile mi viene confermato ulteriormente che è incontestabile, che questa famosissima mail oramai che io ho, la pubblichiamo e da quel momento io per me posso dire questa famosa mail ce l'hai in mano, ce l'hai, sì. Ce l'hai eccetera. Ma sì. Perché non la pubblichi? Perché ho dato la mia parola alla nostra fonte principale dopo i Walter Malteco eccetera eccetera, che è un funzionario di lì, che io non, un funzionario di polizia, uno della polizia che sta là, che loro finché non hanno chiuso l'inchiesta io non pubblico la mail. Allora, per anche i nostri... soprattutto perché questi qui mi hanno detto che mi vogliono, mi arrestano se io pubblico. Ecco. Allora, io sono rimasto stupito di una cosa, cioè leggendo questo pezzo di Gianfranco Semprini oggi sulla stampa, Gianluca, risulta sì. che un collaboratore di La Vitola dice che ha iniziato a fare le indagini. Guarda, questo collaboratore di La Vitola adesso, scusa se ti interrompo, sta mandando un'agenzia fra qualche minuto, chiarendo la cosa, che è semplicissima. Antonio Torres, che è quello che ha pubblicato su El Nacional, che è un giornale di Santo Domingo, la copia della del famoso documento che ha mandato il ministro al premier di Santa Lucia, che non mi ricordo come si chiama, ha mandato è riuscito a pubblicare questo documento interno. Dopo io circa due giorni che l'ha pubblicato, se non sbaglio il lunedì lo pubblica e il mercoledì lo contatto, questo qua inizia a collaborare con me. Stop, questo qui ha asserito che è da febbraio, e c'ero io vicino, c'ho la registrazione della telecamera audio che ha tutto quanto registrato, anche questa intervista, dove lui dice, intervista, poi parla con un collega là vicino, se non sbaglio della 7, una collega, gli dice: guarda, l'equipe, il gruppo ha iniziato a lavorare a febbraio, io ho iniziato a collaborare pochi giorni fa, c'ho un mare di cose anche da vedermi, non so dove mettermi. Vabbè, insomma, io voglio sapere, La Vitola, la spiegazione è complica un po' di più. Sì, ma diventa un casino, la gente non... possiamo chiedere una cosa alla Vitola? Lui ha fatto questo viaggio lì con Berlusconi, dopodiché... Ma è vera questa cosa della festa? Innanzitutto, parentesi, la cosa di cui scrivono le feste organizzate... organizzato la festa con le ragazze e che ne so, magari lo dice, allora pure questa storia della festa con le ragazze, questa è un'altra barzelletta, veramente un'altra scemenza micidiale. Allora, tu, ma mica è un delitto organizzare le feste, Walter? Com'è? Non è un delitto organizzare le feste? No, ma non è un delitto organizzare le feste, figurati un po'. Il problema è che se tu organizzi una festa, dipende dalla festa che organizzi, se tu ti metti a organizzare cose orgiastiche, può essere pure un delitto. La storia è un'altra. Insomma, le orge non sono un delitto, insomma. Vabbè, dipende, sai, voglio dire. Poi dipende da come ti muovi. Io sono uno a cui le orge non piace farle, non piace organizzarle, non piace A Berlusconi piace, di organizzarle. A te se piace. Piace organizzare tu, insomma. Vabbè, ho capito, adesso non entriamo in questi dettagli. No, ma questi voglio dire. Ora, la storia della festa è di una banalità estrema. Berlusconi, quando è andato a San Paolo, premessa che io stavo già lì, perché come ti ho detto, io faccio il giornalista per passione, ma faccio anche l'imprenditore, preferisco farlo in Brasile, no? In Sud America, apposta, perché così io lì non posso essere accusato di essere aiutato per vie politiche, eccetera, A me pare un atteggiamento sano, poi non so, però questo lo lascio questo è un altro discorso, insomma. Valutarli. Io ero lì, ovviamente sapevo che Berlusconi andava, mi sono organizzato per andare pur io. Lì quella sera lui ha fatto 5 eventi, o 4, 5 eventi, di tra virgolette mondani. Uno di questi si è tenuto all'hotel Tivoli, dove alloggiavano tutti, all'ultimo piano, non nella suite presidenziale, ma in una sorta di ristorante, come si chiama, sai, dove le lounge VIP, come si chiamano negli alberi. A quel piano ci sono anche le due, tre suite, super suite, non so come si chiamano, ma si è fatta la festa anche per motivi di sicurezza in quest'ultimo piano, che poi non era una festa, era un ricevimento. Ma qualcuno ti ha accusato di aver reclutato? Aspetta, si è fatto questo ricevimento sulla questo stanza, ricevimento. Non è che dobbiamo entrare come? Dentro la stanza, non è che dobbiamo entrare dentro la stanza, ha fatto una festa, un Berlusconi con quei ragazzi. Ma guarda che non l'ho fatta la festa, se tu mi fai dire. Allora, c'era un ricevimento non organizzato da me, organizzato da un'associazione di imprenditori italiana che sta lì, e ci stavano una ventina di persone della scorta, quasi tutti sti soggetti, alcuni di loro con le mogli, due musicisti, 5-6 camerieri e ti ripeto almeno 4-5 mogli. Okay, niente, niente ballerine. Ascolta, non c'erano 6 ballerine, ce n'erano, io mi sono poi documentato meglio, 11, io pensavo 10, che hanno fatto uno spettacolo di samba meraviglioso, anche lì abbiamo il filmino, più c'era questa famosa ballerina. Uè, ragazzi, se mi volete far parlare. Volevo essere con te, io sono invidioso, però voglio dire, è curioso questo passare dalle feste, diciamo, con le ballerine alle inchieste da 007. Ma perché, scusa, fammi capire una cosa. La titola. Secondo te, ma tu non sei mai andato a una festa in vita tua? No, ma da organizzatore di feste. Ma io non l'ho organizzata, io sono un invitato a questa festa. Però scusate, Luca, perché a parte anche se la Vito l'avesse organizzato la festa, poi può anche fare l'inchiesta. Non è che quelli che fanno l'inchiesta non possono organizzare le feste. Ma non hai capito, ma il dato di fatto è che io non l'ho organizzata. L'avessi organizzata, sarei uno che fa l'inchiesta. Vabbè, lasciamo perdere la questione della festa. Io sono un invitato a una festa che organizza. Quando la Vito la dice, io sono certo che la casa è Giancarlo Tulliani. Su che cosa non si basa? Non ho detto sono certo, credo di sì. Credo di sì. Su quali prove si basa? Sulla base di che cosa? Anzitutto sul credo e non sono certo. Sul credo, credo. Due, si basa sul fatto che rispetto alla sintesi delle cose dette dal ministro l'altro giorno a Castris, sì. Rispetto a questa famosa mail, sì. Al contenuto di questa mail che in parte ho anche già illustrato, io ritengo che a questo punto, se si fa 2 più 2, ritengo che sia stata di Tulliani almeno a quella data. A quella data quale? All'atto dell'acquisto della 2000... sicuramente alla Costituzione e 99% anche all'atto dell'acquisto della e grana. Tu sempre credi che le società costituite siano state costituite da Giancarlo Tulliani oppure no? Sì. Credo di sì, ti credo di sì, credo, sempre di... credo, sempre credo, perché io volevo chiedere che deriva da quale deduzione scientifica che... Parenzo, no, chi è? Telese, che dici? Sono Parenzo, no, dico, quale deduzione? Un attimo, ma io non capisco niente così. Un attimo, ha ragione Davide, non capisce, Telese. Volevo chiedere alla Vitola se lui pensa che le sue inchieste piacciono a Berlusconi, sia contento che lui le fa. Guarda, io non lo so, se perché non glielo chiedete. Io, se ti devo dire la verità, da quando visto che era così interessato Telese, se ti devo dire proprio la verità, a lui non gli è piaciuto affatto. Mi ha detto l'altro giorno, l'ho messo pure sulle agenzie, ha detto: ma come fai a ficcarti sempre nei casini? E in più mi ha chiesto: ma sei sicuro che non ne stai facendo sciocchezze? Ma noi capiamo, io e te capiamo se lui è contento o no. Ha detto che non è contento. È contento, dai. Dice non è contento. Beh, ho capito, Luca, se gli chiedi se è contento, Luca, lui ti dice. Allora ti dico che è contento. Se sei più contento pure tu, facciamo contenti tutti e tre. Ma io sono molto contento se voi siete contenti. Va bene. Dai, che io c'ho... No, vabbè, ho capito. Un attimo solo, poi concludiamo. Tu mi hai detto 10 minuti. Io, se no, sono scortese. Parenzo. Ho due colleghi di Repubblica qua e c'ho mio figlio che mi ha invitato a mangiare la pizza. Parenzo, che vuoi chiedere? No, dicevo, ammetterà che la sua figura attira l'attenzione dei media e del grande pubblico, perché ci sono tutti gli elementi della più splendida spy story all'italiana. Ci sono le ballerine, ci sono le feste, ci sono i dossier. Cioè, questa immagine non gliel'hanno appiccicata i media, non avendo lui smentito quasi nulla di quello che hanno ricostruito i giornali, rimane, come ebbe a dire Bocchino qualche giorno fa, questa opacità di la vita del direttore dell'Avanti. Senta, io non che ce lui la però faccio non smentisce. Io non ce la faccio a dare a un collega del lei, comunque per rispetto, visto che lei me lo dà, glielo devo dare. Allora ribadisco tutta sta storia, se io più che smentirla, metterla per iscritto, se mi viene detto che io non l'ho smentita, la stavo smentendo 2 secondi fa. Urso dice che lei è un personaggio pericoloso. Mi fa piacere, ma Urso dovrebbe, secondo me, andare da un psicologo. Perché alla vita è contento. Perché, cioè, perché dovrebbe andare da un psicologo? Perché Urso mi fa ridere, dai. Io manco l'ho mai visto Urso, l'ho visto 2 volte in vita mia, sta sempre rosso in viso, non lo so che Che vuol dire? Che bevi? Cosa vuol dire? Ma dai, ma per l'amor di Dio, sarà pericoloso, mi fa piacere. Che ti devo dire? Mi dispiace. Urso è rosso in viso. E dice che deve andare dallo psicologo. Sempre agitato, secondo me un po' teso, vive un po' di perdita. Ma lei ha mai avuto rapporti con i servizi o no? Sì, l'ho già detto. Io devi sapere che al piano. Ma a che titolo? Mo te lo spiego. Ma sta scherzando. Al piano di sopra, io abito da una parte, insomma. Sì, così, no? Abita dove abita. Al piano di sopra abita. Non so se ve la ricordate, Daniela Bianchi, quella famosa attrice che con James Bond ha fatto Dalla Russia con Amore. È il mio miglior contatto con James. La Vitola, adesso non possiamo pretendere dalla Vitola che ci dica i suoi rapporti con le persone, con le sue fonti. Ma non che è secondo te, cioè, rapporti con i servizi? No, ho detto con le sue fonti. Ho detto con le sue fonti. Un'ultima cosa, la Vitola, tutti questi viaggi recenti, quelli recenti di questa volta qua in Sud America, quanto le sono costati? circa 32.000 euro. E chi gliel'ha dati? Magari ce l'ha lei, eh. L'Avanti. No, no, come chi me l'ha dati? Me l'ha dati il giornale. E che l'Avanti può spendere, tre, può spendere? No, è una curiosità. Guarda, semplice dato di fatto, tieni presente tutti che ogni l'Avanti. 1000 copie che si vendono sono circa 890 euro, una roba di 850 euro netto. Fatti conto, noi abbiamo avuto un incremento, ti ribadisco, di almeno sicure 3.000 copie, sì. 3 per 8, 24, per 25 giorni stiamo parlando di circa 65.000 euro in un mese. Vabbè, sì, le previsioni ci dicono, le statistiche dicono che almeno il 25%, anche un giornale, soprattutto perché un giornale diciamo così, di aria lo fidelizza. No, perché Fini, se come sai, a un certo punto, Fini, come sai, a un certo punto ha detto chi è che li paga queste, per chi è che paga questi viaggi, eccetera. L'ha detto, io gliel'ho detto chi è nel che suo li video. Paga. L'Avanti. A parte il fatto che insomma in teoria sono me li riesco a pagare pure da solo, 20.000 euro di viaggi. Vabbè, grazie, buona serata. Ciao, buon lavoro. I pubblicità. Eccoci qui, 22 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Fra poco sentiremo i titoli dei telegiornali. Intanto ascoltatori, Massimo, provincia di Messina, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione, questa è di grammatica. Desideravo, se possibile, avere il suo conforto su un ragionamento e argomento, voto di fiducia di Fini e forza FL, insomma. Lui dice, sostiene Fini, che praticamente lui è fedele al mandato ricevuto dagli elettori e quindi deve dare la fiducia, eccetera, eccetera, come sappiamo. A parte il fatto che, devo dire, mi stupisce che il Presidente della Camera non conosca l'articolo 67 della Costituzione, che dice esattamente il contrario, che ogni parlamentare sostanzialmente non ha vincolo di mandato, primo. Vabbè, secondo, ma che, quello che, scusi, che c'entra? Fini sta dicendo semplicemente, non stiamo parlando di Costituzione, sta dicendo che, ma poi insomma è tutto un gioco delle parti, sta dicendo semplicemente che il suo gruppo è fedele al mandato ricevuto dai direttori, cioè sosterrà il governo, ma insomma che c'entra la Costituzione? Ma come che c'entra? Ma la Costituzione non c'entra niente, mi scusi, non c'entra nulla, nulla. Posso finire? Sì, prego. Tutti i governi che si sono susseguiti negli ultimi decenni e del programma sappiamo perfettamente, ha cominciato all'Ulivo del 96, che con conflitto di interessi ci ha fatto la campagna elettorale e poi non l'hanno fatto. Quindi quando è un po' come conviene la questione, ma lasciato perdere questo, se mi è permesso, volevo fare un ragionamento politico. Sì, però Massimo, mi scusi, adesso non possiamo fare ragionamenti che durano 10 minuti. No. Lei ha detto primo che Fini dovrebbe ripassare alla Costituzione, ma in realtà Fini ha detto chiaramente si parla di vincolo di mandato. Secondo, i programmi non contano niente e lei ha ragione, ha ragione su questo. Poi che ragionamento vogliamo fare? No, no, finisco subito perché mi rendo conto che lui sostiene di dare la fiducia al governo Berlusconi. Bene. Se non sbaglio, qualche giorno fa, qualche settimana fa, è lo stesso Fini che ha detto che c'è un pericolo per la democrazia in questo paese. Ora, se c'è un pericolo per la democrazia per il nostro paese e uno è in condizione di bloccare la causa di questa anomalia, a rigore dovrebbe essere conseguente bloccare questa anomalia. Il non farlo mi somiglia tanto un po' a quando D'Alema, nella fine degli anni 90, diceva Berlusconi, se viene in politica lo fotto, non so, scusate se spiego così, ma parole testuali di D'Alema. Ecco, non vorrei che Fini guardi Massimo, ho capito dove, ecco, bravo. Sì, voglio dire, il tempo da ragione lavora per il Presidente del Consiglio, mica per Fini. Questo non lo so, lei dice Fini dovrebbe essere un po' più conseguente rispetto alle sue, le sue parole. Sì, ma io faccio il ragionamento della terra del cittadino comune, perché poi sappiamo perfettamente che i politici vanno alto sulle nostre teste spesso, fanno molti ragionamenti. La ringrazio. Vito, provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera. Senta, prima di fare il mio intervento, mi permette di fare due battute, una su di lei e una su Calearo? Dica. La prima, ecco, io trovo che lei sia più efficace in radio e non in televisione, quindi secondo me deve evitare di andare in televisione. Quando vado in televisione, mi scusi? Io non lo so, l'ho vista in qualche passaggio sul TG2 o in qualche trasmissione di carattere sportivo. Sì, va bene, insomma, per carità, lei può dire quello che le pare. No, ma era solo una battuta, non se la prenda. Invece su Caleaero, è una battuta o è un ragionamento? Non ho capito. No, era una battuta. Ah, ok. Ecco, poi un'altra cosa invece su Caleaero. Allora, solidarietà per la scorta, però ieri mi ha fatto praticamente morire quando a un certo punto ha detto che non avrebbe votato la fiducia per, diciamo così, compiacere a Veltroni, se non che se ci fosse stato bisogno poi la fiducia la votava lo stesso, quindi in quel momento Veltroni veniva messo in secondo piano. Comunque è stato un po' sì, era una spiegazione sì, che stava poco in piedi, insomma, o sei con Veltroni o sei con, va bene, o ci sei o non ci sei. Ecco, invece sul discorso di Berlusconi, io ho ascoltato il discorso l'altro giorno alla Camera, non quello di oggi, e francamente ogni volta che ascolto Berlusconi in questi frangenti mi sembra di ascoltare Mike Bongiorno quando vende i prosciutti, è la stessa identica impostazione. Discorso vecchio di 15 anni però, Vito. No, sì, certo, però adesso non mi attacchi, sì. Perché lo... No, dico, quindi 15 anni fa si diceva la stessa cosa, insomma, mi sembra un'analisi un po' vecchiotta. No, ecco, ma insomma, voglio entrare poi nel merito delle cose che ha detto, al di là di questa cosa. Allora, noi purtroppo come italiani non abbiamo capacità di analisi, soprattutto quando si affronta un certo tipo di argomenti. Ora, volevo sottolineare giusto un paio di passaggi di Berlusconi. Il primo è quando a un certo punto dice: abbiamo ridotto del 98% gli sbarchi in Italia da parte dei clandestini, vero? Però quel 98% nessuno dice che è riferito in realtà al 5%, che è il totale degli sbarchi che avvengono in Italia via mare. Non è il 5%, sarà il 3%? No, è di più. Comunque, 10, vabbè. 15, non mi ricordo. Cioè dell'entrata dei clandestini, sì. Ecco. Poi due. Poi il resto vengono. L'altro diciamo così esempio, si parla del federalismo, nessuno poi parla però in realtà di quelle che sono le regioni a statuto speciale, che di fatto sono quelle le vere mangiasoldi, che hanno un sacco di privilegi che danno poi delle regioni con cui confinano. Va bene, ok, grazie. 28 minuti, pubblicità, torniamo subito. Va bene, siamo qui, 20:12, 800 24 00 24. Parenzo, a che punto sei? Sono imbottigliato in una traffic jam, una marmellata di traffico. Ma dove? Qui sto cercando di raggiungere casa dell'amico Gamberutti, ma sono in mezzo a traffico infernale. Traffic jam, dicono gli inglesi. Ma la vitola che ti è sembrato? No, per carità, la vitola... Non so perché, ma mi vengono in mente queste figure che emergono nella Seconda Repubblica, come Betulla. Magari appunto il caso della vitola non sarà come il caso di Betulla. Però ammetterai che c'è un po' di opacità, no? In tutta l'unica cosa che mi sembra strana è che, per carità, con tutto rispetto per l'Avanti, per giornali piccoli, per carità, non è quello il punto. Però certamente il fatto che un editore proprietario di Lettore a un certo punto spenda più di 30.000 euro per fare un'inchiesta in America Latina, insomma, qualcosa di strano. Qualche sospetto viene. Sì, appunto. Però detto questo, come al solito... Poi mangia una pizza. Eh? Speso 35.000 euro e poi mangia una pizza la sera. Vabbè, si può anche mangiare la pizza. No, dico... Spendi 35.000 euro per andare lì in Sud America, inchieste, qualche festa, no? E poi mangia una pizza. No, beh, questo la pizza non si può... Non possiamo dirgli che è 007, che 007 ha tutta un'altra cifra, no? Insomma, il sospetto qual è? Che abbia lavorato al soldo di Berlusconi, diciamo la verità, insomma. Questa è questo è il sospetto da lettore, che abbiamo. Non perché a differenza sua, che lui dice, credo, rispetto alla questione di Giancarlo della casa, ho un ragionevole sospetto che io, in base a quello che ho letto, qualche dubbio sulla persona mi viene. Poi sì, non posso dire niente perché non ho letto carte, non ho visto, certo. Visto la salta fuori, lo conosco adesso. Non sono un lettore, adesso leggerò l'Avanti. Certo che signor Grillo, anche questo La Vitola fa parte dello schifo della sede di questa politica, eccetera, no Grillo? O no? La Vitola è come i tanti cruciani che ci sono in questo paese. Ma come, che c'entro io? È rovinato da questo. Ma che adesso che c'entro io? Lei è fastidioso perché mi fa chiamare dalle sue collaboratrici sapendo che mi fa schifo parlare. E lo so, ho capito, perché ognuno ha i suoi trucchi, no? Trucchi stupidi, trucchi davanti da chi non capisce che siete morti, tecnicamente morti. Ma lei dice che siamo morti, però qui ogni giorno siamo qui vivi, cerchiamo di trasmettere. Ma non ci siete, non c'è nessuno che vi ascolta, ma è evidente. Venga a vedere il popolo viola, venga a vedere la piazza riempita di computer, di tende, non c'era neanche una cicca per terra. Un popolo di giovani, a lei l'ascoltano solo vecchi e zombie. Francesco della provincia di Modena, lei è vecchio zombie? No, ma ho 30 anni. Ah, allora, signor Grillo, si sbaglia. Un falsificatore. Il Grillo Parenzi, insomma, ha un po' sbagliato stavolta. No, io chiamavo per questo motivo. Avrei una domanda da fare a voi che siete giornalisti, siete sicuramente molto più esperti. Cioè, bisogna vedere, insomma, se siamo esperti bisogna vedere. Comunque. Vabbè, insomma, però quantomeno. Perché una dichiarazione come quella dell'onorevole Ciarrapico, che può essere di dubbio gusto sicuramente, viene tanto calcata a livello mediatico, mentre invece quando c'è un Di Pietro o un altro politico, un altro parlamentare che dà del puttaniere al Presidente del Consiglio, invece passa tutto, voglio dire, molto in silenzio. Beh, tra l'altro c'è anche un giornalista che scrive quotidianamente sul Fatto Quotidiano, dove tra l'altro scrive... Aspetti un attimo. Mi dispiace, ma si chiama democrazia. Una delle ragioni perché prende il 35% è perché non hanno nemmeno il minimo di democrazia di far parlare l'opposizione. Ecco, questa è una delle ragioni fondamentali. Ho fatto alla fine di 5 minuti di un suo ragionamento. Anche mamma mia, com'è nervoso. Amico, bussa anche la porta. Qua dentro non si rispetta una par condicio. Perché lo fai parlare sempre, anche quando parlo io. Abbi pazienza. Italia dei valori, se io avessi dovuto guardare i pesi, scusi, Italia dei valori. Non sono mai stata completamente sola con un uomo nel mezzo della notte, nel mezzo dell'oceano. Oh, è perfettamente. Che vuole dire, signor Francesco? La nave ha il bagnasciuga. Sì, pronto? Sì, che voleva dire allora? No, appunto, volevo dire perché non viene mai ricalcata, a parte questo piccolo spazio. Ma ha detto bene Parenzo, non mi pare che le frasi di Pietro non vengano. Hanno scatenato un po' di ferio. Ma non così tanto, onestamente. Adesso guarda, chiamato dal presidente della Camera. Scusi, Francesco, la frase di Ciarrapico: vedrà che domani avrà sui giornali uno spazio certamente inferiore. Oppure non lo so. Questo può darsi che in assenza di notizie domani sia in prima pagina. Oppure Ciarrapico, anzi, sicuramente sarà in prima pagina di Ciarrapico. Ma sono due cose completamente diverse. L'abbiamo già detto prima. Io sono il primo ad accusare Di Pietro quando esagera o comunque a divertirmi anche sulle frasi di Pietro, ma Ciarrapico è un altro piano. Sulle cose che dice Di Pietro uno può anche ridere, perché la mimica e tutto quanto. Ciarrapico parla sul serio, è diverso. Di Pietro ogni tanto, secondo me, scherza pure, gioca sul suo personaggio, o no? Cioè, rappresenta un gruppo di italiani che comunque lo vota e quindi ha una responsabilità. Sì, no? Francesco, certo, possiamo ragionare anche su questo, sulla responsabilità delle parole, l'odio, quello che vogliamo. Sono anche perché d'accordo. Perché proprio il tono di Astro. E sono anche d'accordo, però sinceramente sentire un senatore della Repubblica che usa la parola chippa nel modo in cui ha usato oggi Ciarrapico mi sembra infinitamente più grave, non lo so, io la penso così. Ma no, ma ha tirato fuori dei vecchi arnesi. Pur non avendo simpatie per Di Pietro, mi sento di dire questo. Spesso abbiamo ospitato qui Ciarrapico per parlare di Fini, magari avrà detto le stesse cose, non lo so, però ripeto, magari l'avesse detto, dal mio punto di vista magari avesse detto queste cose alla Zanzara e non al Senato, sarebbe stata comunque una notizia, per carità. Certo. Avremmo replicato dicendo come fa a usare queste parole, la chippa, eccetera. Però ripeto, mettere sui due piani, sullo stesso piano queste frasi e l'atteggiamento di Pietro e quello di Ciarrapico, non sto facendo una scala di gravità, sto dicendo semplicemente che mi sembrano infinitamente più significative le cose che, anche perché Di Pietro poi le dice da anni le stesse cose, Ciarrapico magari lo scrive pure, però al Senato sentire la parola chippa usata in quel modo, non so, a me tocca particolarmente. Secondo me Berlusconi doveva essere più diretto, più deciso nei suoi confronti. Traffico. Eccoci qui, Giuseppe da Torino, 800 24 00 24, con Parenzo sempre imbottigliato nel traffico di Roma. Giuseppe, prego. Sì. Buonasera, dottor Cruciani, saluto anche lì il signor Parenzo, che non so neanche chi è, però dovete finirla di denigrare il movimento. Buonasera. State un po' esagerando. Comunque. Con chi? Adesso, scusi, con chi? Allora, con il movimento di No, no, veramente soprattutto noi... lì Parenzo, che pensa di essere spiritoso, non fa dire neanche. Scusi, stiamo dando una pubblicità pazzesca. Ah, sì, sì, no, ma va bene, però... Poi l'ironia non ha mai ucciso nessuno, eh. Ma senta una cosa, mi scusi, mi lascio... O potete scherzare solo voi, cioè può scherzare solo il comico e noi non possiamo scherzare sul comico. No, non si può fare l'imitazione di Grillo. Però, prendiamo... Guardi che è un paradosso, non scherzare sul comico. Ma senta una cosa, mi fa parlare o... Dica, Giuseppe, allora, io dico solo questo, io vi faccio solo un esempio. I consiglieri regionali che abbiamo letto in Piemonte... Sì, bravissime persone. Hanno rinunciato a 20.000 euro sì, al mese. Secondo me, secondo me è una stupidaggine. Hanno rinunciato a 20.000 euro al mese e si prendono solo 2.000 euro di stipendio. Male. Ah, male, sì, secondo me male. Di quelli che guadagnano 1.000 euro. Secondo me male, perché se uno vuole fare bene il consigliere regionale in Piemonte, caro Giuseppe, sì, non dico sì, che deve prendere 20.000 euro perché sicuramente è troppo, però deve utilizzare il denaro che viene dallo stipendio per fare bene il suo lavoro, altrimenti, insomma, diciamo la verità, la politica costa, fare politica costa. Ma per cui costa? Rinunciare perché per un motivo di principio è una stupidaggine. Dottor Cruciani, questi consiglieri regionali quando vengono eletti spariscono, non si vedono più. Ma capito, quello è un altro discorso. Rimangono 5 anni con il loro culo attaccato con vabbè, la sedia. Ma esagera, anche questo esagera. Ci sarà pure qualcuno che fa della buona politica al consiglio regionale del Piemonte o in qualsiasi altro consiglio regionale, no? O no, o tutti, come dite voi spesso, tutti fanno schifo, sono una merda, no, eccetera. No, ascolti, dottor Cruciani, le voglio solo dire questo. Ma lei, i politici, io li vedo solo esclusivamente sotto campagna elettorale che vanno nei mercati. Solo una volta ogni 5 anni. Poi 5 anni spariscono, non sappiamo... Ma non è vero, ma sono troppo presenti, vanno troppo in televisione. Il movimento ci porterà, a che fare? A sapere quello che succede in questi consigli. Ma questo va benissimo, non abbiamo mai denigrato l'attività dei consiglieri del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale del Piemonte, anche perché io non la conosco quella attività. Immagino che si occupino, spero che si occupino delle cose che stanno più a cuore al Movimento 5 Stelle. Secondo me dovrebbero incassare i soldi del finanziamento pubblico per fare politica e non darli non so dove, perché quando uno rinuncia che succede, Parenzo, ai soldi? Ma no, ma infatti, cioè voglio dire, chi fa politica deve essere pagato e deve essere anche pagato bene. L'importante è che lavori anche bene. Certo, poi vanno sanzionati gli assenteisti, ovviamente quelli che rubano, che commettono un reato. Ma dopo devono essere pagati bene. Dov'è il problema? No. E vi odio a voi romani, io vi odio tutti quanti. Brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male da intellettuali assanti. Allora, non so se lo sai, Parenzo, ma questa canzone che noi abbiamo utilizzato nei primissimi giorni, molto prima della Padania e molto prima di Radio Padania, l'abbiamo utilizzata forse a sproposito, non lo so, ma noi abbiamo un modo di utilizzare le canzoni che è assolutamente particolare per poi metterci dentro le frasi di Bossi su SPQR, sono porci questi romani. E poi nei giorni successivi a questa frase, oggi Bossi si è scusato con i romani, Renzo Bossi il figlio ha detto addirittura mia madre l'ha rimproverato perché è una sorcina, cioè è una fan di Renato Zero, che è intervenuto anche lui in questa polemica. Dicevo, Radio Padania e la Padania, addirittura la Padania ha pubblicato alcune strofe. Radio Padania la mandava così per alcuni giorni quasi a manetta, come si dice in francese, perché evidentemente si sono entusiasmati per queste strofe. Vogliamo però l'interpretazione autentica e la vogliamo da chi la canta, Alberto Fortis. Buonasera a tutti, anche da chi l'ha scritta, oltre a cantarla. Anche da chi l'ha scritta, naturalmente. Che onore interloquire con lei. Carissimo, benvenuto qui alla Zanzara, in questo luogo di pazzi serali. Dove si trova Fortis? E in questo momento sono qua a Milano e sono in tournée, e quindi domani si riparte ancora, andremo in Sardegna, però in questo preciso istante sono nella mia abitazione a Milano. Nella sua abitazione a Milano. Allora, quando lei scrive nel 1979 e vi odio a voi romani, vi odio tutti quanti, distruttori di finanze, nati stanchi, siete un peso alla nazione, con chi ce l'aveva? Allora partiamo dalla genesi e chiariamo, a parte che sono 30 anni che si chiarisce questa cosa, comunque. Ma però, insomma, questa, repetita Juvent, come lei sa. Repetita Juvent, va bene. Dunque, questa invettiva parte naturalmente per una sfogo nei confronti della Roma discografica, e ricordo anche parallelamente l'altra canzone, proprio Milano e Vincenzo, dedicata comunque a un grande discografico, e naturalmente io poi passo per la persona che odia tutti i cittadini della capitale, eccetera eccetera, e questa cosa in qualche modo mi rimane addosso per un po' di tempo. Fortunatamente poi le cose si chiariscono nel tempo e si stanno facendo dei bellissimi concerti a Roma, ma oltre a questo però mi scusi, quando lei scrive sì? Vi odio a voi romani, insomma, la possibilità di capire che c'è un riferimento diretto alla città di Roma è abbastanza alta. Cioè, lei quando scrisse queste cose, effettivamente a chi pensava concretamente? Io stavo pensando, come l'ho detto, a quello, e poi naturalmente a una centralità di potere. Oggi è uscito anche un articolo sul Corriere della Sera, sì, che arriva naturalmente in seguito a questo uso che la Padania ha fatto della mia canzone. Però quando dunque lei facevo riferimento ai centri del malcostume politico. Assolutamente. Non ai romani come cittadini. In realtà però è lo stesso riferimento che fa Bossi, no Parenzo? Allora, sì, ma Bossi ha sempre usato del suo presario, ad esempio, anche l'immagine di Roma all'altrona, non è nei confronti di Roma, ma come dice, del sistema di quello che Roma rappresenta, cioè come capitale del sistema politico e quindi di una parte della corruzione. Dunque si potrebbe dire, si potrebbe dire che in realtà non è che è stata utilizzata in male allora la sua canzone, perché c'è un riferimento contro della la cricca, contro, diciamo, il malcostume che alberga Roma. Allora, no? Chiariamo questo, vuol dire, qua parliamo di sede politica, di una centralità politica. Io faccio un esempio eclatante, naturalmente non vuole essere parallelo, ma vuole esemplificare. Sono sempre stato un grande fan, già da quando fu senatore, di Barack Obama, poi presidente degli Stati Uniti, ed è una persona che, pur essendo presidente, all'interno di Washington parla di Washington come una sede che naturalmente non favorisce un miglioramento e un progredire dello stato collettivo della società. Chiarisco un'altra cosa, e questo naturalmente riferendosi a delle lobby che conosciamo ben precise. E da sempre io, tanto per riassumere, per esemplificare ancora di più, io sono un fan politico e per ciò che riguarda l'analisi sociale collettiva della nostra società, di Gandhi, che per me rimane l'esempio più meraviglioso. E per quanto mi riguarda, nella mia storia, sono sempre stato vissuto come una persona di sinistra per quelli di destra e di destra per quelli di sinistra. Ma no, io non volevo dire che lei ma lei Bossi continuo. È stato simpatico qualche volta, cioè l'ha votata la Lega? Dunque, io ho chiarito questa cosa, io non ho mai votato la Lega, e anche se devo riconoscere all'onorevole Bossi che è stato nel momento giusto, e poi mi meraviglia tutto sommato, dico, l'attualità che continua ad avere forse questa mia canzone, ma non la deve meravigliare, perché quando lei dice nati stanchi ai romani, un peso alla nazione, brutta gente, vi odio tutti quanti, lei ha spiegato naturalmente il contesto e tutto, però il riferimento diretto al centro di potere romano e anche un po' al carattere, a quei luoghi comuni sul carattere dei romani, c'è tutto, insomma, diciamo la verità o no? Sì, però diciamo che la verità, voglio dire, ci sono c'è una grandissima percentuale, c'è tantissima Roma, tantissimi romani che sono uniti in questa analisi, cioè della centralità di potere. E dicevo prima. Però di scusi, lei è di Domodossola, lei che è di Domodossola, si è mai visto rimproverare da qualche romano il fatto che magari nel 1979 lei aveva quest'idea, cioè l'idea. Non esisteva la Lega, infatti, nel 79. No, infatti, lei aveva l'idea nel 79 da uomo del nord di Domodossola che a Roma albergassero gli scansafatiche, quelli che non lavorano, il potere corrotto, eccetera. Uno poteva anche pensarlo, sì, nel 79, può pensarlo anche adesso, cioè lei si sbagliava, questo vuole dire? No, non voglio dire che mi sbaglio, infatti dico, mi meraviglia della naturalità di questa canzone, se naturalmente viene vissuta nel suo obiettivo preciso, e questo mi accorda, per quanto riguarda la mia visione, io ho il vizio di leggere anche molta stampa estera, quindi su ciò che in qualche modo è l'analisi in maniera forse più fredda, più disincantata, delle condizioni e delle sorti di tutto il nostro paese. Però quindi, Parenzo, io non ho capito una cosa, forse l'hai capita tu, Fortis, poi magari ce lo spiegherà dopo la pubblicità, nel 79 voleva attaccare i romani e dunque in realtà la no, radio secondo me, oppure no, questo non ho capito ancora bene. No, lui voleva attaccare un sistema, cioè una conventicola, direbbe Virzì nel bellissimo film Caterina va in città. Cioè lui era venuto a Roma per incidere un disco, è stato gabbato, preso in giro, umiliato per questo disco e questo sistema di potere ha fatto incidere poi il disco e la canzone, sì, che poi l'ha reso fortunato e famoso, e rispetto a questo ha scritto un'orazione civile nella quale diceva, insomma, ma può essere che Roma sia questo luogo in cui albergano conventicole, amicizie, questo magma, no? Molto, sì, che poi è molto attuale. Cioè non c'era, da quello che hai capito tu, non c'era un attacco diretto nei confronti dei romani. No, assolutamente, ma neanche in bocca. Vabbè, abbiamo la borsa, poi torniamo per qualche minuto ancora con Alberto Fortis. E vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male da intellettuali e santi. Io vi odio voi romani tutti quanti. Parenzo, Fortis sì. è stato uno dei tuoi preferiti oppure no nella tua storia musicale? Assolutamente. Sì? Adesso lo dici, perché lo dici perché... Non solo perché è del nord. No, mi piace davvero, moltissimo. Senta, lui, Rino Gaetano, sono tantissimi. Camerini. Senta, Fortis, ma lei è pentito che questa cosa sia stata utilizzata dai leghisti oppure no? Guardi, le cose fanno parte di patrimonio e dominio pubblico a questo punto, e certo non mi aspettavo il contrario, visto che un'assonanza c'è. Ma io voglio riassumere un attimo quello che è stato scritto nella mia canzone, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno per una volta in questa condizione comunque difficile del nostro paese. E io ho avuto il grande onore di essere ricevuto dal nostro presidente Giorgio Napolitano, proprio al Quirinale, per la mia attività sociale, essendo testimonial nazionale di AISM, che combatte sclerosi multipla, e di City Angels, sì. Di avvertire in lui uno dei ancora presenti galantuomini della nostra politica. E sono convinto di questo, che ci sia oramai una volontà di alte forze politiche di cercare di dare una svolta definitiva alla condizione del nostro paese, per cercare di uscire al più presto da un impasse che molto probabilmente ha visto sdoganare un codice mafioso che forse sta diventando ridondante. Senta, Fortis, però al di là di questo, le volevo chiedere, lei questa canzone la suona ancora durante i concerti oppure no? Oh, io l'ho suonata anche a Roma, facendoci due risate. Io suono spesso anche al The Place, che è un posto storico. E naturalmente questa cosa, insomma, dico augurabilmente dopo 30 anni. Ma com'è che fa esattamente? Perché poi noi abbiamo mandato una versione magari un po'. Voi anche perché in una carriera trentennale ci sono cose anche forse più sublimi rispetto a questa, ma no, certamente certo. Quando poi si tocca al sociale e politico immagino che dia più possibilità di discussione. Ma com'è che fa esattamente questa canzone? Io non me la ricordo bene a un certo punto. Vi odio, la faccia lei un po' se le vuoi. È questa che sta sentendo. Poi c'è un riferimento che è molto, secondo me, molto carino, molto forse quello ripreso a proposito, dove dice che mamma lupa poveretta si è svenata con i denti. Com'è che fa? Me la intona un po'. Se dice mamma lupa poveretta si è svenata con i denti. Il giornale ha riportato con stupore: non poteva sopportare che il suo popolo invasore diventasse una colonia di invadenti. Questa direi che è molto carina e molto indicativa per capire l'essenza proprio, quindi l'obiettivo in quanto, ripeto ancora una volta, probabilmente un malcostume politico. Poi tra l'altro, scusa, le case fosse stato Venezia, forse si parlava di gondole. Ma il potere discografico non era a Milano all'epoca? No, io per primo, innamoratissimo di Roma, ho cercato il contatto e avuto con l'RCA, esattamente appunto con la persona di Vincenzo Micocci, e anche perché era il momento dell'imperversare della scuola romana con grandissimi maestri quale Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, che sono tra quelli che amo in maniera particolare. Senta, ma una piccola strofa di... Ce la canti, dai. Ce la canti una piccola strofa di questa canzone. No, ma questo vi aspetta ai miei concerti, del resto l'avete lì, per cui cosa c'è di meglio dell'originale? Poi inviteremo tutti ad andare ai tuoi concerti. Però una piccolissima, proprio iniziale. Lasciamo sotto un promo. L'ho già fatto. Via su questa... No, mandiamola solo la strofa. L'avete fatto voi. Va bene, buona serata, grazie. Grazie per essere stato con noi. 2040 800 24 0024. Non ce l'abbiamo fatta a convincerlo. Gli artisti. Anni. Angelo, provincia di Messina, dovremmo chiamare fra poco la Melchiorre, caro Parenzo, non ti agitare. Sono calmissimo, anche sono arrivato a casa finalmente. La moglie di Parenzo la Melchiorre non è accanto a Parenzo. No, amore, sono a casa di Valdo Gamberuti. Posso passare a Gamberuti per dimostrare che sono a casa di un uomo e non di una donna? Così almeno gli dico che gli chiedo. È un uso privato del mezzo pubblico, lo so, sì. Però. Signor Gamberuti? Aspetta che gli passo Gamberuti. Sì, signor Gamberuti. Gamberuti in linea. Signor Gamberuti, buonasera, ma lei ha piacere a ospitare una volta a settimana, due volte a settimana il signor Parenzo? Non viene a scocciare a vedere ogni volta uno zero da lei, no? Ma devo dire che non sporca per terra, insomma, ci si può stare, insomma, no? Ma quando tra l'altro stavo sentendo Fortis. Sì, che di coincidenza che di politica non ci capisce. Ma io sono un fan di Fortis e ce l'avevo sullo stereo, potete controllare. Che canzone ce l'aveva sullo stereo? Tutto vero, eh? Ah, veramente, lo sto sentendo, mi avvicini un attimo. Stavo sentendo Fortis. Avvicini un attimo che ho sentito poco. Sì, guarda. La sedia di là. Certo. E io stavo cucinando le polpette per Parenzo sentendo la sedia di là. Allora, com'è la cena? Non sapevo nulla di Forti. Che era con voi. Com'è la cena questa sera? La cena abbiamo delle polpette in umido, in bianco, e poi delle verdure al forno, una ratatouille, diciamo. Ci si può stare. Ci si può stare. Ma quando vede Anno Zero, Parenzo reagisce? Cosa fa quando vede Anno Zero? Prende parte? Impreca? Un po' rosica. Vorrebbe stare dall'altra parte. Una santorizzazione di Parenzo che io controllerei, Cruciani. No, guarda. Terrei sotto controllo. No, ma una santorizzazione mi sembra esagerato, però è da tenere sotto controllo. Ha ragione, Gamberuti, ha ragione. Io vado ai fornelli. Prego, me lo ripassi. Grazie, signor Gamberuti. Coppia di fatto. Grazie. Quanti siete? In due. Siamo in due. Come... Vabbè, ma insomma, una cosa assurda. Invitate qualcun altro. Che è sta storia? In due a vedere Santoro, una tristezza infinita. Però devo dire che le polpettine valgono sicuramente. Niente male. Grazie, signor Gamberuti. Di nuovo Parenzo per lei. Grazie. Simpatico il signor Gamberuti, eh? Molto. Poi fa delle imitazioni pazzesche di Santoro, di Vendola. Anche lui? Lui è il più grande imitatore di Vendola, di Michele Santoro, anche dei palestinesi. Come dei palestinesi, che significa? Di Nemer Ahmad, lui fa la più grande imitazione dell'ex ambasciatore palestinese di Nemer Ahmad. Mitico Nemer Ahmad. Va bene, Angelo provincia di Messina, dopo la pubblicità. Angelo provincia di Messina. Buonasera, dottor Cruciani. Innanzitutto complimenti due volte. In primo perché lei è il numero uno del servizio pubblico. Secondo perché vedo che anche come opinionista sportivo si ragava abbastanza bene. Domanda, da 1 a 10. Il comportamento di Antonio Di Pietro in Parlamento ieri, quanto è tollerabile? Certo, ne ha detta una grossa. Che noia. Ne ha detta una molto grossa. Altra domanda? L'altra domanda era, si possono prendere delle decisioni in Parlamento per cui, per esempio, nella fattispecie un parlamentare può essere espulso? Non ho capito, scusi. In Parlamento esistono leggi secondo le quali in un comportamento del genere un parlamentare possa essere allontanato, espulso dall'aula. Ma non lo so, ci sono un regolamento che prevede anche l'espulsione dall'aula, non so se questo fosse il caso. Ma perché? Per che cosa? Per Berlusconi stupratore, là, quella roba là. No, ma della democrazia. Per il serpente a sonagli, serpente stupratore. E poi non dimentichiamo che Antonio Di Pietro è stato un parlamentare che, diciamo, ha partecipato un po' a tutti i festini. Non si è tirato. Si è tirato mai indietro, ecco. Da che cosa? Cioè, si è trovato pur sempre nella mischia, non è poi si è trovato nella mischia, quello che sono i rugbisti di solito. No, ma lei dice la mischia politica. Angelo, io non lo so se ci fossero gli estremi per espellere Di Pietro dall'aula, penso di no. Sono sempre opinioni politiche, anche se chiaramente. Ma scusa, quello che sposa il cappio? Ma al di là dei paragoni, quello del cappio, la mortadella, eccetera. Quando Barbato si mise la coppola in testa, gli diedero tra l'altro una sanzione molto attaccò anche Schifani e gli fece delle accuse pesantissime, si mise la coppola sulla testa e si prese un'espulsione di 2 giorni dall'aula. Sì, quindi sì, no, le certo. Sanzioni esistono, no? Le sanzioni esistono, però certo non per espressioni, un'opinione. Non per opinione molto forte, per carità, colorita come al solito Di Pietro, ma insomma fa sì, parte. Dov'è la gravità di dire stupratore? Beh, insomma, secondo me ripeto, la parola stupratore non dovrebbe essere usata. Dopodiché, magari è di cattivo gusto. È di cattivo gusto utilizzare la parola stupratore, che poi Di Pietro abbia detto di Berlusconi Nerone, Caligola, Dracula negli ultimi tempi, insomma, fa parte anche questa cosa, lo stupratore della democrazia, fa parte di tutta la teoria di soprannomi e invettive di Pietro. Ma l'idea di una democrazia violata, c'è una democrazia violata in questi anni o no? Cioè, no, secondo me no, però insomma, sono stata una vergogna. Sì, ho capito, però questo è già un giudizio di merito. Secondo me non c'è nessuna democrazia violata, su questo non la pensiamo allo stesso modo. Però ripeto, secondo Di Pietro invece c'è stato uno stupro della democrazia, cioè una violazione della democrazia, questo voleva intendere Di Pietro. Però Pannella l'ha denunciato tante volte. Sì, ma secondo me infatti Pannella si riferisce più in generale al sistema dei partiti, però, alla partitocrazia. Certo, però la parola stupro secondo me non va utilizzata in questi casi, secondo me non va utilizzata. Dopodiché poi dici sottilizziamo. Sì, forse hai ragione. La parola stupro è stupratore, lo stupro è un'altra cosa. Traffico. Eccoci qui, caro Parenzo, per gli ultimi minuti della Zanzara. Li vogliamo trascorrere in compagnia di Daniela Melchiorre. Buonasera. Ah, buonasera. Come sta? Bene, grazie. Dove si trova, onorevole Melchiorre? Mi trovo a Milano. A casa sua? Finite le nostre giornate parlamentari. Certo. Sono a casa mia. A casa sua a Milano. Noi vogliamo sempre localizzare, no? Non ci vogliamo fare gli affari suoi, per carità. Senta, signora Melchiorre, qui sai, Parenzo, cosa è successo? Che martedì notte, secondo la ricostruzione di qualche giornale, sai, i giornalisti, signora Melchiorre, sì, sono sempre in piccioni, magari raccontano qualche stupidaggine ogni tanto. La signora Melchiorre, che fa parte dei liberal democratici, però poi non capisco, liberal democratici repubblicani si sono poi trasformati in liberal democratici Maie. Che vuol dire Maie, signora Melchiorre? È il nome del nostro gruppo parlamentare, bisogna distinguere. Liberal democratici sono il partito che io presiedo, liberal democratici Maie è il nome della componente parlamentare della Camera. Ah, ho capito. C'è una differenza. E liberal democratici tipo parlamentare. Ah, ecco, invece liberal democratici Maie è un acronimo. Maie è un acronimo. Di che cosa? Maie? Movimento Associativo Italiani all'Estero. Italiani all'Estero. Insieme al deputato eletto all'estero abbiamo formato una componente nel gruppo misto. Benissimo. Liberal Democratici Repubblicani invece è tramontata come sigla, cioè Repubblicani, avete cancellato la cosa Repubblicani? No, è cambiata la formazione, nel senso che il regolamento della Camera prevede che per formare delle componenti parlamentari ci debba essere un numero minimo di parlamentari, quindi noi l'avevamo formato inizialmente con i repubblicani e adesso siamo con il MAIE, sempre liberal democratici, sempre, questo è quello sempre, importante, per carità. Il fatto importante è questo. Eh sì, perché sennò non si capisce. Senta, quello che volevo chiederle, martedì notte, secondo alcune ricostruzioni, lei e il signor Tanoni, Italo Tanoni... No, guardi, allora, no. Chiariamo... Aspetti, mi faccia finire. Vi sareste presentati davanti a Berlusconi per insomma decidere una volta per tutte se questa fiducia aveva da dare oppure no, e voi gli avete detto noi la fiducia non te la diamo, caro. Guardi, no, non è vero. Stoppo subito perché non è vero nulla. Vabbè, però non è che i giornali raccontano solo stupidaggini, ci sarà stato un incontro. Beh, lo so, noi purtroppo, noi con i giornalisti parliamo, diciamo la verità, poi c'è chi la scrive e chi invece insomma costruisce. Non c'è stato un incontro con Berlusconi? No, martedì. No. Qui nessuno ha incontrato Berlusconi, Parenzo, negli ultimi giorni. Ma se mi fa parlare un attimo. Prego. Allora, dalla viva voce, martedì nel tardo pomeriggio il mio collega, l'onorevole Tanoni, che è coordinatore dei liberal democratici, Maie, quindi io non c'ero, è andato da parlare con il presidente del Consiglio. Dunque lei non c'era, non ha assistito a questo colloquio? No, io non ho assistito. E lei quando è che ha parlato con Berlusconi l'ultima volta, se ci ha parlato? 2 mesi fa il Presidente del Consiglio aveva telefonato ai liberal democratici e quindi siamo andati, io in qualità di Presidente e il coordinatore, siamo andati a parlare. ovviamente ti chiama il Presidente del Consiglio. E che fai, non ci vai? No, c'è qualcuno che non ci è andato. Ieri la signora Mondello, l'onorevole Mondello, ci ha detto: lei, per carità, ma chiamate le Russia, non ci sono voluto andare per non cadere in tentazione. Ha rifiutato la chiamata. Ma che tentazione? Guardi, allora, senta, scusi, la signora Mondello rappresenta se stessa. Noi siamo un partito. Beh, ho capito, e quindi, sì, se siamo chiamati come interlocutori. No, ma stavo scherzando io. Cioè, parliamo non è che... con tutti. Certo, per carità. Dire, no? Per ecco, allora, se parliamo ecco, con tutti, certo, possiamo ragion di più parlare con tutti. Assolutamente. Presidente. Allora, però, signora Melchiorre, il punto è molto semplice. Siccome voi siete stati eletti col PDL, nella lista del PDL, perché con una vostra identità, cioè, perché non avete votato la fiducia ieri? Sarebbe stato abbastanza logico. Allora, no? Io le chiarisco una volta per tutte il concetto. Dunque, noi siamo liberal democratici, lo eravamo prima, lo siamo adesso e lo saremo domani. Ho capito. Con questa legge elettorale, i partiti che non riescono a superare la soglia del 4%, devono mettere dentro una. Esatto. Questo l'abbiamo capito, un però. Un cartello elettorale, il che significa che noi non siamo entrati nella PDL, nel gruppo, certo, della PDL, eravamo un cartello elettorale. Però sempre con un partito che sta al governo. In Parlamento. Grazie al PDL siamo andati in Parlamento. Certo, ho capito, ma. No, ma è una domanda: perché non avete votato la fiducia? La domanda è: perché non avete votato la fiducia ieri? Non abbiamo votato la fiducia per la semplice ragione che, come abbiamo detto al Presidente del Consiglio 2 mesi fa, quando ci ha chiamato e ci ha parlato del quadro politico, della crisi, eccetera, eccetera, noi abbiamo detto. Non abbiamo mai detto, contrariamente a quello che ha scritto qualche giornale, che avremmo appoggiato la maggioranza, eccetera. Noi abbiamo sempre smentito queste notizie, inviando agenzie di stampa, parlando pubblicamente, dicendo che noi avremmo deciso nel momento in cui il Presidente del Consiglio avesse chiaramente detto, avesse chiaramente parlato alla Camera. Che cos'è che non vi è piaciuto? Allora, io ho usato un'espressione che mi è sembrato il suo discorso una via di mezzo tra il libro dei sogni e il programma elettorale. Però scusi, il sospetto, vi aspettavate delle cose concrete, il sospetto, mi risponde in pochi secondi che poi dobbiamo chiudere, il sospetto è che, insomma, voi chiedevate giustamente per fare politica ci vogliono anche i posti di comando, un sottosegretariato. No, senta, guardi, allora gliela dico subito, allora, a noi non è stato offerto nulla. No, magari l'avete chiesto voi. Non abbiamo chiesto nulla, questo sia chiaro, una volta per niente, tutte. Niente. Assolutamente nulla. Cioè, noi facciamo politica, non facciamo mercato. Ecco, questo sia chiaro. Va bene. Noi facciamo politica. Va bene, però, insomma, voglio dire, per fare politica ci vogliono anche dei posti di potere, Non è che sia uno scandalo, Per fare politica. Ma cosa sei? Ho capito, ma lei lo sa, guardi, perché nessuno vuole mai una componente parlamentare. Certo, ma perché sono nessuno della mia vita non fa alla ricerca della poltrona. Certo, onorevole Melchiorre, si potrà. Questo è anche offensivo nei confronti del curriculum che mi ritrovo. No, ma non sto dicendo allora, che lei. Come stanno i fatti? A noi nessuno ha offerto niente e noi non abbiamo chiesto niente. Va bene, grazie. Grazie, buona serata. Ci sentiamo domani con la zanzara. Caro Parenzo, qui nessuno vuole mai ammettere che chiede dei posti. Mai nessuno. No, ma perché magari non è successo, però è abbastanza strano che su 10 interlocutori cui chiediamo, avevano offerto qualcosa, avete chiesto qualcosa, tutti dicono di no. Mai. Posti mai. Noi domani. Noi poniamo una questione politica. Politica di principi, le cose, cioè. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Baci. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare. La zanzara.